entrato a Rush City. Qui niente falsi miti, la realtà non è distante se tuo padre ha travestiti. Con questo beat che ti rapisce, mica roba standard. Amplifico il tuo stato d'animo come la bamba. Quello che faccio garantisco non è meno di te. Porto rispetto solo a chi c'ha meno di me. Questa vita è una cazzo di fatica. Oggi sono più negro io, zio denegrita. Questa non è Radio Conga, è la merda che ci circonda. Quindi non pensarci, fai una bomba. Io vado di conda, due fiatate per buttarsi un'altra volta a barra onda. Nuovo giro, nuova corsa. Se vado di fretta poi dimentico la borsa. Sette code cavi è probabile la scossa. Se vedo la bianca di sicuro qui si resta. Il lupo perde il pelo e conosciamo pure questa. King Rush, il new king di sta cazzo di foresta. E Tarzan con la cresta, la sola cita come scimmia non mi basta. Disbosco il territorio per la giolla un po' più crasta. Yeah. Sono tornato per uccidere i tuoi miti. Se fai il mio nome alcuni provoca pruriti. Sono tornato stavolta se per restare. La morsa si fa più stretta e non riesce a respirare. Sono tornato per uccidere i tuoi miti. Se fai il mio nome alcuni provoca pruriti. Sono tornato stavolta se per restare. La morsa si fa più stretta e non riesce a respirare. Il mio stile eclettico, il mio suono elettrico, il mio flow più tecnico, il nemico scettico. Fino a quando non lo spettino e torna a casa con la coda tra le gambe, con la cricca shake e co. Ehi cazzo, pensi che siamo noi le rapao? Noi siamo bravi, ne abbiamo pure il fattore wow. Sono l'angelo a casa di questi demoni, la forza per i deboli. Io sono i soldi sì con i debiti. Quindi non confondermi e non confondere il mio nome. Rush, una sola religione. Io consumo hash come tutta la nazione. E il fuoco che c'ho dentro non lo spegni con l'estintore, coglione. Sono tornato per uccidere i tuoi miti. Se fai il mio nome alcuni provoca pruriti. Sono tornato stavolta se per restare. La morsa si fa più stretta e non riesce a respirare. Sono tornato per uccidere i tuoi miti. Se fai il mio nome alcuni provoca pruriti. Sono tornato stavolta se per restare. La morsa si fa più stretta e non riesce a respirare. Sono tornato per uccidere i tuoi miti. Se fai il mio nome alcuni provoca pruriti. Sono tornato stavolta se per restare. La morsa si fa più stretta e non riesci a respirare. Boom, cia cia come Fifty pure Marra. La gente dice che non tiro e io continuo a farla. È la mia donna che mi tira le pare. Pensa che voglia giocare a quello che vuole cantare. Il mio flow lo spingo sempre più in alto. Sti babbi che ho davanti me che tengono un po' il palco. Poi c'è chi arriva da consigli, professore di più cose. Se fosse giusto sicilieri con cime per le rocce. Pensi al fiato che spendi per farmi capire quanto cazzo comprendi. Per far sì che non pensi che forse pretendi qualcosa. E cazzo sono ancora qui. Sono tornato per uccidere i tuoi miti. Se fai il mio nome alcuni provoca pruriti. Sono tornato stavolta se per restare. La morsa si fa più stretta e non riesce a respirare. Sono tornato per uccidere i tuoi miti. Se fai il mio nome alcuni provoca pruriti. Sono tornato stavolta se per restare. La morsa si fa più stretta e non riesce a respirare.